Bentornati anche questa settimana ad una nuova puntata di Rock Legends. Al microfono, come sempre, il vostro Jean-Luc, ancora ospite in studio, diverso genere, diversa provenienza. Dal Trevigiano è arrivata una stoner band a presentarci il loro primo disco. A voi la parola, ragazzi. Ciao a tutti, noi siamo i Muzzled, veniamo da Riese Pio X in provincia di Treviso e stiamo pubblicizzando il nostro primo disco uscito per Go Down Records dal titolo Reborn, nel quale proponiamo 12 tracce inedite ed una cover che è Gimme Shelter dei Rolling Stones. E con i Muzzled, una prima parte dedicata ad alcuni artisti hard rock meno noti della scena inglese degli anni 70, iniziando dai Warhorse, che dall'omonimo disco del 1970 ci hanno fatto ascoltare la canzone Ritual. La parentela con i primi Deep Purple è valorata dalla presenza dell'ex bassista Nick Simper e il valore vi è molto vicino, che ne dite? Beh, si nota subito la somiglianza con i Deep Purple, però noi siamo dell'idea che il livello compositivo dei Deep Purple sia nettamente superiore. E la cosa, penso, secondo noi è dovuta alla presenza di John Lord. Va bene. I Muzzled sono assieme dal 2007. Come vi siete formati e perché avete scelto questo nome? Allora, il gruppo nasce dalle ceneri di una giovane tribute band dei Led Zeppelin che si chiamava Mad Dogs. E il nome Muzzled sta a significare proprio l'aver voluto mettere la museruola a questi cani pazzi per dar voce alla vera anima di questa nuova formazione. Va bene, continuiamo con i Sam Gopal, formazione atipica e ancora vicina alla psichedelia esotica, grazie alla presenza del leggendario percussionista di tabla, può vantare l'esordio al basso di Ian Wills, che tutti noi conosciamo con il nome di Lemmy. Da questo unico leggendario disco del 1969, nome Escalator, ci ascoltiamo proprio la title track. Ancora poco noto, ma che già aveva idee protese al futuro. Che ne pensate? Beh, molto molto buono comunque. Dal garage alla batteria tribale, poi le chitarre ricordano molto, secondo me, i Nebula. A tratti, che sono vicini anche a noi. Vostre esibizioni, come sono andate, quelle più importanti in termini di esperienza e le impressioni che avete raccolto dal pubblico alla fine dei concerti? Allora, l'esperienza più importante è stata sicuramente quella di partecipare al MEI nel 2009 a Faenza e in qualità di unico gruppo rappresentante del Veneto. E importante è stato anche il concorso vinto alla Fucina Controvento, il quale ci ha poi permesso di partecipare appunto al MEI. E fra altre date da ricordare non può mancare sicuramente l'Aslo Film Music Festival, dove abbiamo suonato assieme ai Banda Bardot. Poi live allo Shindy con gli Italo-Anglosassoni Atomic Workers. E infine vale la pena citare varie collaborazioni con gli OJM. E nei nostri live in generale comunque il pubblico risponde alla nostra musica con espressione di curiosità e particolare interesse. Concludiamo dunque questa prima parte con i più noti Uriah Heep. Nel 1979 esce Live in Europe, secondo ufficiale disco live della storica formazione, in cui però troviamo la voce del maestoso John Lawton e da cui ascoltiamo il classico Stealing. A fra poco per la seconda parte. We are gonna do something a little bit easier. Song from Sweet Freedom. If you know the words, sing it. If you don't, shut up. Okay. Well, there's a